47. Filippo vide Molly, vestita d'azzurro tenue, e fece un passo per salire la collina. Respirò aria e luce, il mondo era quieto, il Gran Turco maturo e pensoso, i suoni del mondo rugiada fresca. Molly era lontana, là in cima, ma sapeva che l'avrebbe raggiunta. Dopo tanto tempo i piedi si muovevano leggeri, l'erba rispondeva al loro tocco, si chinava, concedeva il passaggio. L'universo ascoltava curioso. La guerra era finita e c'era sole ovunque. Molly lo salutò e sorrise. «Vieni, da qui si vede tutto. Campi e laghi, montagne e oceani. Il compiersi dei cicli». Filippo le fu vicino, guardò di fronte a sé. Il mondo non aveva più orizzonte. Si allungava fin dove l'occhio poteva vedere e proseguiva, sempre più stretto e denso, vago e fradicio d'aria, senza mai scomparire. Popoli e colori, vite e destini, tutto vive in quella striscia sottile. «Là in fondo siamo noi visti da dietro», pensò Philippe Lacroix Ronaterionte. «Se la freccia del mio sguardo arrivasse tanto lontano, potrebbe conficcarsi nella mia nuca». Molly Brent de Gonguadonti lo prese per mano. L'aria formò piccoli vortici esitanti. Philippe parlò. «È tempo che io sappia perché scegliesti me». «Getta il tuo sguardo là in fondo, tamburino, e dietro di noi e tutto intorno. Siamo sulla vetta del tempo dove la risposta precede la domanda, l'effetto precede la causa, la morte precede la nascita. Devi salire questa collina per comprendere il tuo percorso. Privo di madre e di padre, sei morto come francese per nascere come Mohawk, il giorno in cui cadeva in battaglia Hendrick. Quel giorno il mondo di Sir William piantò radici. Dovevi morire per vendicare Hendrick. Ti sei salvato. Un nuovo ciclo si è aperto. La nazione ti ha dato un padre e una madre. Sei stato un grande guerriero. Hai superato prove. Camminavi coi Mohawk. Poi la nazione ti ha perso e tu hai perso la nazione. L'incompiutezza del tuo ciclo sbilanciava il mondo. Il padrone della vita lo sapeva. Dovevi tornare al mondo, Ronaterionte, per poter morire, per illuminare il destino della lunga casa». Philippe parlò. «Io, privo di madre, non so più quante volte sono nato. Tu sei la prima e l'ultima levatrice. Hai fatto di me un Mohawk e mi hai richiamato per l'ultima volta. Adesso sei la morte». Molly parlò. «Il mondo si è sbloccato». Molly parlò. «Un cerchio si chiude, un cerchio si apre». Molly parlò. «Le sei nazioni vivranno». Philippe sospirò. Gli occhi si bagnarono di lacrime. Il piombo aveva sbranato la carne, tranciato una vena, dato via libera al sangue. Qualcuno gridò un nome. «Ronaterionte!» Qualcuno intonò una domanda. Qualcuno grugnì una risposta. Le ultime sagome umane si affollarono nelle code di occhi sempre più velati. Ci sarebbe stato digrignare di denti, stringere di pugni, pianti e canti e saluti. Filippo era pronto. Tornò all'utero del mondo. «Madre, mia origine, mia nazione», al buio tiepido e accogliente della terra.